bene. Vieni, questa è l'ultima volta che siamo insieme e parliamo di noi. Poi sarà forte, sarà vero, e non è sempre veleno. Parlo, ma non so quel che dico. Vedo che tu hai lottato il bicchiere. Ora ti alzerai, te ne andrai. Thank you.